Sam gli hanno dato la libertà vigilata. È dato lui. Vai, non c'è più tra qualche mese. Ehi, Joe, passa una cinque. E tu passami una cinque. Guardami, dovunque io vado, io rappresento la banda dei ragazzi. Io sono loro, sparapacchiato a zampe all'aria, sempre coi fratelli, sempre pronto a fare paraculate. Proprio così. Io adoro fare paraculate. E tutti in giro a sconocchiare certi figli di troia. Beh, cazzo, zappate in testa, scoltellate, come capita, tu mi capisci? Fondare le porte e pestare qualche fesso. Tu lo sai, lo sai benone, se dopo spassarsi la cazzo, amico, ti giuro, da farmi a pezzi. Io ti vado da certi stronzi, amico, con un fratello e lo lascio là. Ritorno e quello è lì che dorme sul pavimento, che so, come un barboncino. Esprimo la mia rima che fa a coppia con un pazzo. Quando scrivo la mia testa scoppia perché sono spazzo, attratto dall'astratto, mi butto nel concreto, in contatto con l'asfalto, senza mai guardare dietro, al retro, dinanzi distrazioni di turno, concentrato come un fighter nel silenzio notturno, notturno di riposo, perché il rimorso mi ha rimorso, oso cercando un beat che venga in mio soccorso, corso su una strada, in compagnia del suono, già in salita poi più ripida, ma sta via non l'abbandono, nonostante le difficoltà, sono distante dall'arrivo, se mai un arrivo si vedrà, se scrive per vedere un futuro in questa realtà, vivo un controsenso vittima della mia cecità, da cui sono afflitto, sprofondando in questo mare di cazzo, le farò la fine del relitto. Lo sai che Rocket si è nascosto, vero? Beh, gli spiriti hanno ammazzato il Vespa, amico, hanno ammazzato come un cane. Lui era lì che si trombava la ragazza di Rocket, quelli entrano e bang bang, gli hanno pompato tanto piombo dentro che è diventato una matita. Mollato per terra, rannicchiato come un lattante con un cazzo tardo. C'ho versi incastrati come vato. Non ti ricordi di me perché è cresciuto quel ragazzo. Sarò basso ma al massimo è l'altezza. La vita mi ha insegnato a non badare all'apparenza. Rappresento un cusenza, ho la potenza giusta che ti gusta e che aggiusta questa scienza. Provenienza meridione, faccio parte di quelle persone che prima agisce e dopo pensa. Se agisce in parole è come un ciclomotore che fabbrica rime dall'esistenza. È una composizione di suono e rumore, di un tono migliore di cui non posso fare senza. Lo faccio per loro, mi porti in merda ma non oro, perché solo la merda ti compensa. Questo è il punto, l'ho capito e l'ho raggiunto da uno spunto, ma è solo un punto di partenza. Ci vuole competenza, non furti, ma se sei contento tu contenti tutti. Noi non siamo farabutti, lo facciamo col flow, ma il giorno d'oggi chi semina i pop raccoglie solo insulti. Passo il tempo con beta a modellare rime come Creta, per mandare a casa un altro analfabeta. Ma con le Champions League ti sogni la B, altrettanto la C, al massimo in serie Z. Questo è crudo. Parola, è stato il bullo, quel fottuto bulletto, ma gli romperemo il culo e tutto il resto, certo, amico. Mistica. Beh, rimediami delle sigarette e qualche rivistina porno, prego.